Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa puntata parleremo dei principali provvedimenti trattati nelle commissioni assembleari in tema di investimenti, legalità e sanità. La Commissione Politiche Economiche ha analizzato i risultati della legge sulla promozione degli investimenti in Emilia-Romagna nel biennio 2018-2020 e degli ultimi bandi emessi dalla Regione a partire dal 2020. In quest'ultimo periodo, dall'inizio della legislatura, ha riferito l'assessore al lavoro Vincenzo Colla, sono stati approvati 42 programmi legati agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e siglati 23 accordi regionali di insediamento e sviluppo di imprese. 1.237 le persone assunte, di cui 657 laureate. Intanto, altri 19 nuovi accordi verranno sottoscritti entro aprile. Sentiamo Matteo Daffadà del Partito Democratico. Credo che gli strumenti di questa legge abbiano portato ottimi risultati, anche sul territorio e sull'avvicinare le aree periferiche, diciamo, alle zone più centrali, tant'è che con la fibra, con i nuovi investimenti sulle nuove tecnologie, si è riusciti a infrastrutturare appunto anche aree della montagna, anche aree del territorio più vicino al Po, e questo ha consentito appunto di sviluppare e di iniziare un nuovo sviluppo anche su quei territori. Consistenti gli investimenti generati con la legge per l'attrattività, quasi 129 milioni di euro. Ecco cosa ha sottolineato Stefania Bondavalli della lista Bonaccini. Complessivamente penso che la legge 14 sia una grande opportunità, bisogna però proseguire naturalmente su questa strada per rendere la nostra regione sempre più attrattiva dal punto di vista anche nazionale, ma non solo, anche a livello internazionale. Ma è l'occupazione, secondo la Lega, la nota dolente. Le parole di Stefano Bargi. Molto interessante avere i dati su quello che sono gli accordi di investimento della Regione Emilia-Romagna. Ci sembra di vedere una fortissima attenzione alla ricerca e sviluppo e in particolare le grandi aziende già di fatto presenti sul nostro territorio. Ci piacerebbe vedere però un'attenzione molto più forte sul tema dell'occupazione. E per Marco Mastacchi di Rete Civica, bene l'attrattività, ma bisogna fare in modo che le aziende poi rimangano nel territorio. E per fare questo ci sono ancora nodi da sciogliere. Sentiamolo. Noi abbiamo tanti territori fragili dove mancano le infrastrutture e il rischio è di portare le aziende in Emilia Romagna ma poi perderle perché non trovano le condizioni buone per poter poi rimanere nel tempo. La Commissione Cultura ha approvato il piano integrato delle azioni regionali per la promozione della legalità e la prevenzione del crimine organizzato. Il documento, di durata biennale, è previsto dalla legge quadro regionale in vigore fin dal 2016. Ecco cosa ha dichiarato Silvia Zamboni di Europa Verde. È un piano molto ambizioso e soprattutto un piano che mette a disposizione anche delle risorse. Penso per esempio alle risorse che sono state messe per il microcredito, oltre 3 milioni e mezzo, dei quali già quasi 3 milioni impegnati per 155 soggetti. La criminalità organizzata è presente, ce lo dimostra anche il famoso indagine Emilia, e quindi anche qui bisogna tenere gli occhi aperti. È importante che la Regione lo faccia con questo provvedimento. Dal microcredito al monitoraggio dei fenomeni di illegalità, dagli accordi per potenziare l'attività di controllo ai progetti educativi per i giovani. Il piano per la legalità prevede diverse misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata. Dal 2015 la Regione ha siglato ben 237 accordi per promuovere progetti per oltre 5 milioni di euro. Sentiamo Francesca Marchetti del Partito Democratico. Un piano importante, quello che è stato illustrato, che testimonia come la Regione Emilia-Romagna intende continuare la lotta alle infiltrazioni mafiose, alla criminalità, attraverso delle azioni di politiche integrate che attraversano gli ambiti del lavoro, dell'educazione. Il piano dei beni confiscati è sicuramente un altro elemento qualificante. Siamo la prima regione del centro-nord ad approvarlo e credo che anche questo sia un elemento molto importante di come dobbiamo restituire alle comunità i beni confiscati. L'Emilia Romagna conta 865 immobili confiscati. Nel 65% dei casi si tratta di unità abitative. Solo 149 invece i beni riassegnati ai comuni per un uso pubblico. pubblico. Dalla confisca alla consegna al comune perché ne possa disporre, i tempi sono molto lunghi e possono raggiungere i 9 anni. Mentre l'Emilia-Romagna si incammina verso la zona bianca, grazie alla progressiva diminuzione dei contagi e dei ricoveri, ha suscitato dibattito in commissione assembleare la frattura che si è creata tra l'assessore regionale alla salute, Raffaele Donini, e la dirigente del suo stesso assessorato, Pietro Pulacos. Una polemica dai toni accesi, partiti dalla scelta della dirigenza di sospendere lo screening anti-Covid agli operatori sanitari, scelta poi revocata dall'esponente della giunta. Le parole di Marcella Zapaterra, capogruppo del Partito Democratico. Io non credo che questo debba mettere in discussione il lavoro fin qui fatto. I cittadini devono sapere che continuiamo a lavorare per loro e per dare le risposte ai loro problemi. Come Partito Democratico chiediamo quindi alla Giunta di superare più velocemente possibile questa crisi adottando le soluzioni che ritengono più idonee anche dal punto di vista organizzativo, però che consentano a noi come consiglieri e all'Aula di svolgere il proprio ruolo di indirizzo e di legislatore proprio per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Dure le opposizioni che vedono nel conflitto in atto un elemento che mette in luce problemi già evidenziati nella gestione della sanità in tempo di pandemia e chiedono di andare oltre. Ecco cosa hanno dichiarato Marco Lisei di Fratelli d'Italia e a seguire Daniele Marchetti della Lega. Si sta consumando uno scontro senza precedenti tra l'assessore e il direttore generale che mette in evidenza tutte le criticità che Fratelli d'Italia ha sempre evidenziato nella gestione della pandemia. Questo scontro deve cessare, ci deve essere trasparenza nei confronti dei cittadini, perché mentre qualcuno litiga e volano gli stracci, ci sono tanti cittadini che chiedono prestazioni sanitarie arretrate, ci sono tanti cittadini che chiedono appunto che la sanità emiliano-romagnola funzioni come dovrebbe e purtroppo invece non è così. Oggi che dovremmo parlare di apertura delle liste d'attesa, aperture dei reparti, investimenti in sanità, ci troviamo praticamente impantanati per via di uno scontro in atto tra l'assessorato e la parte tecnica dello stesso. Abbiamo chiesto un confronto in aula che purtroppo ci è stato negato. Speriamo di avere al più presto altre occasioni proprio per mettere un punto e poter andare avanti con questioni care ai cittadini e risolvere finalmente le problematiche che tutti quanti ci chiedono. Da Igor Taruffi di Emilia Romagna Coraggiosa, l'appello alla Giunta per riportare la situazione alla normalità in tempi rapidi. Dobbiamo invece chiedere al Governo le risorse per finanziare la battaglia che stiamo conducendo contro il Covid. Al tempo stesso abbiamo necessità di discutere approfonditamente su quelle che sono le destinazioni delle risorse derivanti dal PNRR. Parliamo di oltre 500 milioni che dovranno andare a finanziare le strutture sanitarie e potenziare le strutture territoriali della nostra regione. Quindi questo è quello di cui dobbiamo parlare, del resto non solo non ci interessa, ma credo che sia del tutto fuori luogo continuare questa invereconda discussione. Al momento la dottoressa Petra Pulacos è stata sospesa dall'incarico. E per concludere sentiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni la nuova garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Claudia Giudici, nel suo primo giorno di lavoro in Viale Aldo Moro. Bisogna partire dalla scuola, dall'educazione. L'obiettivo è quello di conciliare diritti che sono diritti collettivi, che ci appartengano a tutti e che costruiscono il futuro nostro e dei nostri ragazzi. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea Legislativa, seguiteci sui profili social e sui siti assemblea.emr.it e cronacabianca.eu. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia-Romagna, programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.